Adesso mi viene in mente cosa fare la radio, ma loro intervengono anche con programmi di educazione per i bambini, vanno agli orfanotrofi, fanno tutt'altro che quello che uno aspetta dal militare, no? Studiano per fare tutt'altro. Eh sì, diciamo, danno un senso concreto alle attività. Professore, ma venerdì c'è un incontro, venerdì prossimo, c'è un incontro di presentazione del corso. Normalmente io non ci sarò perché... No, lei non c'è. Ah sì, allora so io. E quindi ci saranno tutti i docenti, ci sentite qualcosa? No, ce l'ha buttata. Solo lei. Ce l'ha buttata, mi sembra che ci siamo migliorati. Avete ricevuto, io ricevuto sì, un'email di consultazione. Sì, no, ma stamattina abbiamo bloccato la Olivieri. Sì. E ci diceva sarà presente alla presentazione del corso raccontati, migliorati, parlava. Se non alle 6. Alle 4. 3. 2 e mezza. Ah, 2 e mezza, sì. Controllo l'email ricevuto perché cioè l'ho letto ma non. No, io non ci sarò. Quello che però mi piacerebbe capire la parte di tirocini, di stage, di attività alternative, se hanno già pensato a qualcosa oppure ancora in questione. Ci avevo chiesto anch'io. Perché alcune attività, siccome in collaborazione col Terzo Stormo, dovranno essere fatte col Terzo Stormo. Allora capire chi sono i referenti, per esempio, perché io ci vado a parlare. Potrebbe. Probabilmente era stato quello il riferimento perché la chiesta del Terzo Stormo, ma nel Terzo Stormo mi sembra che io non ci sia nessuno che doveva essere un giorno di allora, la collaborazione, la simbiosi sembrava che dovesse essere tra la parte. Sì, io pensavo che arrivassero tutti qua in massa. Sicuramente militare e la parte civile, per cui per installare anche i famosi regni. Sì, ma in realtà loro, perché loro si occupano di, sono i primi che partono per qualsiasi tipo di intervento e quindi loro hanno una certa esperienza, magari non teorica, però sul campo pratico loro sono espertissimi, cioè girano tantissimo. Beh, però al limite stanno facendo dei tirocini, potete chiederlo. Sì, no, ero in curiosità anch'io di capire. Se lei ha qualche riferimento, qualche sì, persona, poi se me la passate questa informazione, io poi mi attivo. Io avevo già chiesto a Olivieri se potevano già partire con qualche tirocinio per fare anche quei secreti di attività formativa, ma mi sarebbe piaciuto fare qualche tirocinio per fare sinceramente un esame in più. Aula tra punti. E lei ha detto, guardi, da febbraio in teoria dovremmo aprire una finestra. Giampaolo Pellegrino, personale civile della difesa. Sì. Mi aveva dato il colloquio e ha detto se c'è bisogno di contatti. Ah, vabbè, io prendo contatto. Ed è a Villa Franca perché fanno proprio sì, sì. È un civile. Allora, giampaolo.pellegrino, chiocciola, verso CIV. Perso CIV del personale civile, perso CIV.difesa.it. CIV.difesa.it. Mi aveva dato lui espressamente al colloquio perché ha detto che c'è bisogno di essere contattato per gli stage e così, quello è riferimento. Sì, io direi se. Ti faccio una foto, te la mando se vuoi. Posso? Direi, cioè di. Sempre la mediazione tecnologica. Cioè io mi vergogno col quadernetto a scrivere così. No, però la presenta è l'agenda, anche io c'ho l'agenda. Ho visto dei sistemi di chi ha gli occhialini che memorizza con l'occhialino, chi sì. Io ancora. Sì, ma tu l'hai nato che dovresti essere super tecnologico. Lasciamo. Comunque posso invece dire una cosa, la cosa altamente interessante secondo me è che gli studenti di riorganizzazione delle strutture comunitarie hanno subito formato una rete che ha anche una disposizione strutturale che si ripete nel corso del tempo. Questo è molto bello, avete già creato un network di sostegno, c'è il broker al centro che spinge le informazioni. No, devo dire che lui ha creato un gruppo Facebook. Avete già fatto il gruppo anche su Facebook? Certo. Mettici studenti su Facebook, l'ho fatto io, ma ha un insuccesso. Ma come, io l'ho cercato su Facebook. Se scrivi governance dell'emergenza, c'è la mia pagina. Ma su quale Facebook? Quello normale? Però siccome sono riuscito. No, ma c'è l'idea di fare il gruppo Facebook o WhatsApp. Però cioè, 5-6 persone non hanno neanche account su Facebook. Ma è di tutto, quindi di tutto il corso WhatsApp è più generalizzato. Anche a me sì, piaceva però Facebook, Facebook permette più. Sì, sì, anche condivisioni. Io se volete contattarmi via mail o via piccione telefono normale o piccione viaggiatore, perché nego. Guarda che il gruppo l'ho fatto chiuso, quindi i contenuti del gruppo vengono visti solo dai membri. Sì, lo so, ma io. Vabbè, io non è che ti voglio convincere, non è che è mio. Non è che ho parenti con Zuckerberg. No, vabbè. Però diciamo che. No, no, ho capito. Per altre motivazioni, adesso vediamo. Noi troviamo un metodo unico che sarà pure. La bacheca va bene, lo stesso, basta che troviamo un metodo unico. Siamo 20, voglio dire. Giusto, siamo. Dovremmo essere una ventina. Sì, credo di qualcosa, cioè, più di 20. 20 persone. Non conosco il numero preciso. Sì. 20 iscritti. Beh, però se avete creato un gruppo. Su 115 posti, di cui il 70% riservate alle fattorie. Io, cioè, i dati sulle iscrizioni non lo so. Cioè, ho avuto la prima impressione durante la prima lezione e quindi tutto mi sembra un gran miglioramento adesso. No, ma poi il prossimo anno io mi faccio pubblicità con i miei colleghi, dico ragazzi guardate che cioè, è una cosa interessante, perché effettivamente interessante, è una cosa che secondo me ci professionalizza ancora di più, perché comunque attività del genere noi non facciamo molta attività pratica, però tranne alcuni reparti, cose del genere da noi non esistono. Giustamente, perché un livello tale non si può raggiungere se non all'università. E quindi io mi farò promotore per il successo del corso. Il prossimo anno vedrete le altre. Una cosa alla volta. Ogni tanto dovrai andare a lavorare. C'è più ghiaccio. Mi mangio tutto lo stipendio per fare queste cose. Diciamo sta. No. Va bene, se le attività di networking molto interessanti, importanti. Ecco, allora direi che possiamo passare a questa altra parte, diciamo, che riguarda appunto l'introduzione al concetto di paradigma di rete. E come vedete adesso ci avviciniamo alla pratica della ricerca, nel senso che poi i capitoli, vedete, quindi i capitoli 4 e 6 come riferimento, poi gli ultimi capitoli in modo particolare iniziano già ad affrontare dei temi tecnici, e quando parleremo di dei temi tecnici transiteremo direttamente al manuale di Chiesi sulle misure, sulla raccolta dei dati, eccetera, e quindi a quel punto passeremo alla parte più tecnica. Allora, qui quindi i riferimenti sono grosso modo i capitoli da 4 al 6 del volume della Di Nicola. Anche qua ho cercato di indicare le pagine precise per le slide, così le trovate con facilità e velocità, con però degli approfondimenti che vi segnalo. Gli approfondimenti, cioè le cose che io aggiungo a lezione per rendere, dal mio punto di vista, secondo me, ancora più chiari alcuni temi, alcuni argomenti, di per sé non costituiscono materia d'esame, d'accordo? Quindi quando poi ci sarà l'esame che è un orale, se ricordate questi approfondimenti, bene, d'accordo? Se non lo ricordate, non anche io mi aspetti che voi vi ricordiate, d'accordo? L'importante è che vi ricordiate le cose che stanno indicate nei testi, okay? Allora, che cosa vuol dire paradigma? Ecco, questa è una, diciamo, la definizione di Kuhn, epistemologo, eccetera, che si è occupato della definizione di viene dalle scienze naturali questo studioso, ma però si è occupato di definire il concetto di paradigma, che per noi è molto importante a livello anche epistemologico, direi, E qui troviamo la sintesi di questa definizione riportata in un volume di Corbetta sulle tecniche di ricerca sociale, vedete di riferimento bibliografico. Che cos'è un paradigma? Un paradigma è una prospettiva teorica condivisa e riconosciuta dai cultori di una determinata disciplina. Questa, diciamo, prospettiva teorica è basata sugli sviluppi della disciplina stessa ed è capace, serve a indirizzare l'analisi empirica nella scelta dei fenomeni importanti da studiare, nelle reazioni delle ipotesi per la spiegazione dei fenomeni osservati e delle tecniche di ricerca più adeguate. Allora, un paradigma è una prospettiva condivisa da una comunità scientifica che serve a cercare i fenomeni, a descriverli e a produrre le ipotesi di ricerca e le tecniche più adeguate per comprenderli. Ora, questo concetto nasce in riferimento prevalente alle scienze naturali. Le scienze naturali tendenzialmente hanno un paradigma prevalente. Pensate ad esempio al passaggio dalla fisica newtoniana alla fisica della relatività. Oggi non credo che ci siano fisici che utilizzano il paradigma newtoniano per studiare le faccende collegate alla conoscenza della realtà. E quindi diciamo che ci sono degli ambiti in cui c'è un paradigma, e questa definizione è perfetta, perché è una prospettiva teorica condivisa e riconosciuta da tutti i cultori tendenzialmente di una determinata disciplina. Ok? Naturalmente il passaggio da un paradigma all'altro è difficoltoso, richiede dei miglioramenti tecnici, eccetera, eccetera. Le scienze sociali, direi più in generale, le scienze umane, sono tendenzialmente multiparadigmatiche. Noi abbiamo tanti diversi paradigmi che coesistono nel corso del tempo e sono condivisi da sottocomunità rispetto alla comunità complessiva di studiosi e cultori della determinata disciplina. Ok? E vi propongo questa introduzione perché il paradigma di rete non è l'unico paradigma delle scienze sociali, d'accordo? Questo l'abbiamo già capito, è un modo particolare di fare tutto questo, cioè identificare i fenomeni, ideare delle ipotesi per spiegarli e le tecniche di ricerca più adeguate. È una risposta. E Corbetta è molto interessante il suo lavoro rispetto a questo, perché lui dice che un paradigma di ricerca sociale deve rispondere a tre questioni. La prima è la questione ontologica, cioè la questione del che cosa. Cioè, esiste una realtà sociale? Esiste una realtà propriamente sociale che non possiamo definire altrimenti che sociale? Prima domanda. Seconda domanda, la questione epistemologica. Come è conoscibile? È conoscibile questa realtà? Attraverso in che modo è conoscibile la realtà sociale? E la terza questione è la questione tecnologica o metodologica, quindi diciamo meglio metodologica o tecnologica, che è la questione delle tecniche di ricerca che si possono utilizzare per conoscerla, d'accordo? Quindi lui dice un paradigma della ricerca sociale che risponde, e ci sono diversi paradigmi, perlomeno diciamo due sono quelli un po' più prevalenti, il paradigma interpretazionista o costruttivista, il paradigma realista, vabbè, adesso al di là, che oggi è definito neopositivista in modo particolare, ma al di là di questo, ecco, se noi riteniamo che la realtà sociale sia una determinata cosa, che sia conoscibile in un certo modo e che ci siano delle dei metodi e delle tecniche più adeguate di altro per conoscerla, abbiamo creato un paradigma, ok? Adesso non è che io devo raccontarvi tutti i paradigmi che ci sono nelle scienze sociali, se siete interessati vi do riferimento per approfondirlo, non è il momento di questa lezione. Però quando parliamo di paradigma non parliamo di un concetto che si somma agli altri che abbiamo visto finora, per cui non devo ricordare questo concetto qui, no, questo è un concetto che serve a inquadrare proprio l'azione del ricercatore, da quando inizia a guardare un fenomeno a quando raccoglie i dati, da quando decide, meglio, di guardare un fenomeno a quando raccoglie i dati. Detto questo, il paradigma di rete è caratterizzato, qui torniamo al volume di Nicola, pagina 108, da una specifica prospettiva, una peculiare logica di ragionamento e si avvale di particolari teorie e tecniche per descrivere e comprendere la realtà che guarda. Questa strategia è in qualche modo simile a quella che utilizza in generale per presentare diversi paradigmi Golbetta quando parla delle tre questioni, d'accordo? Io trovo un parallelismo rispetto a queste strategie analitiche. Nicola dice: per presentare il paradigma di rete vi devo dire che tipo di prospettiva è, cioè da quale punto di vista guarda la realtà, che logica di ragionamento usa per conoscere la realtà e quali sono le teorie e le tecniche che usa per descrivere e comprendere la realtà. Ok? A partire da questo, diciamo, da questi tre aspetti del paradigma, poi man mano, uno per uno, questi aspetti vengono approfonditi, sono innanzitutto inquadrati in questo modo. È tutto chiaro finora, cioè il disegno complessivo, ok? Se noi vogliamo guardare le relazioni sociali, che pensiamo che la realtà sia parte delle relazioni sociali, dobbiamo utilizzare un paradigma di rete, cioè dobbiamo entrare dentro una prospettiva teorica che non è quella di tutti i sociologi, ma solo di quelli che pensano che la realtà sociale sia fatta di relazioni. Abbiamo visto che non è così. È un po' come un teorema matematico, per esempio. Perché? Perché parli al sociologo di matematica si sbaglia. Perché? No, come è venuta la questione? Perché c'è una ragione se la posso fare questa domanda. Sì. Ecco. Questa è la paradigma di rete, per cui deve essere, cioè la questione teologica se si può, epistemologica e tecnologica, vuol dire che è già inquadrato, per cui per studiare quel fenomeno io devo. Però in genere un teorema ci dice anche come va a finire una certa cosa, no? Ti faccio un esempio di teorema. Teorema mentale. Ecco, se lo ricordo lo puoi cominciare, io non sarei capace di fare cose. La somma dei quadrati costruiti sui catetti è uguale al quadrato costruito sui catetti. Ma che bravo! Benissimo! Beh, ha visto che l'ha detto. Ha visto che l'ha detto come va a finire il teorema, però. Anche la famosa canzone, teorema, chi era il teorema? Degli stadio. Degli stadio, premio no, Madonna. No, è di Ferrandini. Ecco, lei si sistema del problema. La collocazione centrale. Io l'ho subito capito, sul tema del teorema, la risposta adesso lei sarà. Anche la canzone di Ferrandini ci dice come va a finire. Cioè, ecco, quindi io non vedrei il discorso del teorema. Non ho associato il teorema perché dice come va a finire. Perché è un assunto, mettiamo. No, qui diciamo. Allora, le faccio un esempio molto. Faccio un esempio molto semplice. Partendo da una grande distinzione che c'è, che se volete potete approfondire in corpetta, molto semplice. Ed è la differenza tra il paradigma neopositivista e il paradigma interpretativista. Ok? Questi sono i due paradigmi più diffusi in questo momento in sociologia. Potremmo dire che il paradigma di rete si avvicina molto, almeno dal mio punto di vista, a quello del mio punto di vista, ma è un altro paradigma che adesso presentiamo. Per esempio, la questione ontologica, no? Esiste una realtà sociale? Per alcuni non c'è, d'accordo? Quando il biologo mi dice che il fenomeno dell'innamoramento è collegato a il rilascio di un certo tipo di ormone di una ghiandola e dipende da quello, non stiamo dicendo che c'è un fenomeno sociale, d'accordo? Non possiamo essere sicuri che per tutti esista una dimensione puramente sociale. poniamo che la risposta sia sì, se non dobbiamo cambiare il mestiere, questo ciò. Bene. Ecco, allora, ci sono perlomeno due modi di vedere questa faccenda. Per il paradigma neopositivista, la realtà sociale appunto è una realtà. La risposta alla questione ontologica è di tipo realista, cioè c'è una realtà al di fuori della nostra, del fatto che noi ce la rappresentiamo in qualche maniera, che sta lì, che è oggettiva, che noi come studiosi dobbiamo conoscere. Okay? Questa è una posizione realista. Se vogliamo, ipostatizzando, cioè crea questa realtà al di là della percezione degli individui. Un sociologo interpretativista, trovate questa differenza, quando la Di Nicola parla della differenza tra amico e mago, un interpretativista mi direbbe, non è vero. Se voglio capire qual è, come è fatta la realtà sociale, devo capire in che modo i soggetti si rappresentano in modo che hanno attorno. La realtà, c'è una realtà sociale, c'è una dimensione sociale della vita degli individui nella misura in cui questi si rappresentano qualcosa di sociale nella loro testa e produce degli effetti sul modo in cui interagiscono. Ok? È un modo diverso, d'accordo? Questione epistemologica, come seguono, come si risponde? Allora, è conoscibile? Se sì, come? Per un realista la conoscenza è dualista. Il ricercatore ha di fronte qualcosa che sta fuori dagli individui e naturalmente attraverso dati raccolti sugli individui, ma non solo, la capisce. Durkheim sicuramente si chiama neopositivista perché parte dalla postazione positivista, d'accordo? Dopodiché il realismo positivista è stato da alcuni definito realismo ingenuo, cioè si crede che la realtà sia perfettamente conoscibile. I positivisti pensano che questo sia possibile. È il realismo di oggi, del neopositivismo, il realismo critico. La relazione tra ricercatore e realtà è una relazione critica, cioè la realtà è solo imperfettamente conoscibile, in maniera mai completa, mai perfetta. Lo scopo dei positivisti, quindi, è quello di ricreare in laboratorio la realtà. Il tipo di impostazione di ricerca può essere quasi quella sperimentale, che è un modo di fare ricerca, un giorno magari ne parliamo, diverso da quello di cui stiamo parlando finora. Bon, allora, la risposta, quindi l'interpretativista ha un approccio costruttivistico, la realtà è una costruzione sociale, è una costruzione fatta da lei, da me, noi costruiamo la realtà. E quindi non ci può essere dualismo tra il ricercatore e la realtà osservata. Per capirla io devo entrare nel punto di vista delle persone che se la stanno rappresentando. Non posso essere esterno, d'accordo? Devo, parlare di empatia, no? Devo assumere il punto di vista, comprendere la posizione dei soggetti che fanno parte della realtà. Quindi a livello metodologico le tecniche di ricerca sono molto diverse. Se io costruisco un questionario ho la presunzione di dire che la variabile A può assumere che è una proprietà dei soggetti, può assumere gli stati, cioè le modalità 1, 2 e 3. Sta lì, è esterna agli individui e io vi chiedo di collocarvi, di dirmi se voi rispetto alla variabile A siete 1, 2 o 3. Il questionario, le tecniche statistiche. Dentro il mio positivismo, un interpretativista, un costruttivista non userebbe mai il questionario, non ha senso il questionario. Ma le tecniche, la risposta alla questione metodologica sta nelle tecniche di ricerca in profondità, intervista, il colloquio in profondità, cioè l'osservazione, tecniche che ti consentono di comprendere il punto di vista dell'altro, perché è quel punto di vista la realtà, non è il questionario, non ha senso il questionario di queste tecniche. Quindi quando si parla di integrazione con tecniche di ricerca, io penso che ci sia un'integrazione temporale. Se arrivate in un paese sconosciuto non potete somministrare un questionario sulla pianeta, stavo appena scoperto il pianeta con degli esseri colorati che circolano all'interno di questo pianeta, arriviamo con un mega strumentazione, cioè, atterriamo su questo pianeta, questi esserini circolano, quanti di voi somministrerebbero un questionario sulla religione, sul senso di religione di questi esseri? Io non lo farei, non sappiamo se esiste qualcosa di simile alla religione, poi in che stati si presenta, eccetera. Quindi per una prima conoscenza rispetto, prima quando lei diceva quali sono le domande che devo fare quando arrivo in una situazione di difficoltà, ok? E non conosco nulla di questo contesto, di quello che sta succedendo in quel momento, ma devo organizzare questa situazione. Io ho detto, parlare con qualche testimone significativo può essere utile. Allora è chiaro che avere un approccio costruttivista, interpretativista, che consenta di sposare il punto di vista di un testimone che noi consideriamo significativo per farci descrivere una realtà che non conosciamo per niente, ecco, sicuramente è l'unica strada, non ne vedo altre, non può arrivare con un questionario. D'accordo? Perché intanto c'è il rischio che glielo tirino in testa, no? Beh, e dopo c'è il rischio che, non ci, che non, dentro non abbia chiesto niente, che abbia un minimo di senso per le persone che le stanno rispondendo in quel momento, d'accordo? Ciò non toglie che al tempo T, dopo questo tempo T0, che al tempo T1, invece, grazie anche all'aiuto del testimone significativo, si cominci a voler capire come questo fenomeno, che per noi è una realtà, che non dipende dalla percezione dei soggetti, si distribuisca tra di essi in un piccolo gruppo chiuso oppure in un campione di soggetti che noi peschiamo in base a qualche caratteristica, eccetera, d'accordo? Quindi poi il paradigma di rete sostanzialmente è realista, d'accordo? Anche se c'è chi lo ha utilizzato e chi tuttora lo utilizza attraverso un'impostazione. Per esempio io e il professor Migliorati siamo provando a fare una ricerca assieme, ma siamo quanto di più diversi possa essere per fare una ricerca assieme. Lui è un etnografo, d'accordo? È un etnografo, cioè è dentro l'approccio, diciamo così, non glielo dite, d'accordo? Non mi fate ascoltare niente di quello che si sta registrando in questo momento. No, scherzo, solamente questo è registrato, però poi queste cose non potete condividere, mi raccomando, c'è proprio scritto nella copyright dell'università, eccetera. È uso personale, come per certi tipi di farmaci. Ecco, allora io invece no, ho un approccio più verso il mio positivismo per i tipi di ricerche che fa, però stiamo provando a fare un'indagine assieme, che magari un giorno vi proverò per un po' a raccontare. Bene, però torniamo, riveniamo a Newton e vediamo che cos'è la cosa. Non so se ho chiarito qualche aspetto adesso, ok? Bene. Allora, con questa necessità di capire che cosa è la realtà, esiste al di fuori degli individui, la risposta è realismo relazionale critico, esiste al di fuori degli individui ed è fatta di relazioni. Come si conosce? Si conosce attraverso un approccio dualista, cioè noi dobbiamo usare gli individui come testimoni significativi, ma non è il punto di vista dell'individuo che ci permette di riassumere la situazione. La questione metodologica è la network analysis, d'accordo? Questa è l'anticipazione, utilizzando questo approccio qui, che in parte è simile alla modalità che poi adesso discutiamo, perché si parte dalla prospettiva. Qui non troviamo molte novità rispetto a quello che abbiamo già avuto modo di anticipare. La realtà sociale a livello di prospettiva non è fatta di individui che agiscono in base a una specifica intenzionalità, non è fatta di istituzioni che si impongono all'individuo. Vedete la differenza? Le prime due frasi, adesso che vi ho reso i dotti rispetto ai due paradigmi prevalenti, vedete che cosa c'è? La prima frase è una negazione dell'approccio interpretativista. Ok? La seconda, la realtà sociale non è fatta di istituzioni che si impongono agli individui, è una negazione di un approccio realista che esista al di là delle relazioni, d'accordo? Qui trovate un riferimento al dibattito tra micro e macro sociologia. Micro sociologia è l'approccio durkheimiano e macro sociologico. Tolti gli individui, resta comunque la società. Ed è la società che determina largamente l'agire dell'individuo. Un approccio macro sociologico sarebbe definito da Margaret Thatcher, che trovate pure citata, una deflazione verso il basso, dall'alto verso il basso, cioè questa dimensione schiaccia quella individuale. Il comportamento individuale è sempre prevedibile a partire dalla condizione macro. Al contrario, invece, l'approccio weberiano è microsociologico, partiamo dall'intenzionalità dell'individuo. La realtà si compone grazie alla composizione delle azioni dell'individuo. Se non c'è questo, non può esserci un livello macro. D'accordo? Quest'altra operazione ha la materialità, cioè nella definire una inflazione verso l'alto, dal basso verso l'alto, è la base, le azioni degli individui che schiacciano, no, la dimensione macro. Lì si dice la realtà non è né questo né questo, ma direbbe Collins, sta nelle teorie, cioè lui non direbbe che è così, però ha collocato la network analysis a livello meso, in mezzo le relazioni tra la struttura e gli individui. Ma quindi il micro che cosa fa? Dalle azioni degli individui, la composizione sono semplicemente le azioni. Ma c'è una matrice freudiana? Dove? Nell'analisi del micro? Perché dici che c'è una matrice freudiana? Dunque, partendo dall'analisi che fa Freud sull'io. No, allora c'entra nel senso che possiamo leggere l'analisi di Freud a partire da questo dibattito, ma non è che ne usciamo fuori, okay. Perché Freud considera la formazione della, diciamo così, mette accento, diciamo, l'ES, sì, che è l'energia vitale dell'individuo, sì, il principio. Poi c'è, però c'è il principio ordinatore, che è il superio, e l'equilibrio, che è l'io. Allora l'ES potrebbe essere, e però poi diciamo che l'ES dipende dalla maturazione biologica, d'accordo? È il controllo delle zone erogene. Se vogliamo definire questo un rapporto individuale, potremmo metterlo qua c'è il superio, che è la struttura, prima incarnato dalla figura del genitore, che deve controllare quindi ogni fase, il passaggio dalla fase orale alla fase anale, eccetera, eccetera, consiste nel controllo della fonte di piacere. Quindi è un approccio teorico, ma secondo me si può inquadrare qua dentro, d'accordo? In modo particolare penso a Freud letto nel processo di, come teoria, nel processo di socializzazione. Sì. Okay? Sì. La realtà sono anche il piacere, anche il piacere, c'è l'esterno, c'è l'interno, ma il piacere ha la dimensione della struttura relazionale, può essere letto in quel modo, è molto interessante. Freud, ovviamente. La realtà sociale, non so se ho risposto un po' alla sua domanda, però non vedrei un'alternativa. La realtà sociale è fatta di relazioni sociali, quindi non è queste cose, non è fatta solo di individui micro, non è fatta di istituzioni che si impongono agli individui, ma è fatta di relazioni sociali. L'individuo esiste sempre in relazione con un altro, e nel momento in cui la relazione diventa società, a questo punto. E poi vedremo a livello teorico che Agricola presenta la teoria relazionale della società di Donati e di Bayer, l'approccio di Bayer, del fratello di Bayer, e poi Nick Crossley. E io un piccolo approfondimento in modo particolare lo farò su Nick Crossley, perché voi conoscete Mill, interazionismo, poi l'interazionismo simbolico, prima la teoria milliana, George Herbert Mill, non ne avete mai sentito parlare, no? Può essere più sano. È interessante perché definisce, diciamo, la formazione dell'identità dell'individuo sempre a partire dalla condizione relazionale, interattiva, cioè l'interazione precede l'identità, l'individuo sempre dal punto di vista logico, no? E Crossley parte da questo approccio e presenta oggi il testo fondamentale del 2011, una visione relazionale dell'identità degli individui. Quindi è interessante perché utilizza la network analysis, è interessante perché è un modo per leggere l'azione sempre come portato non delle istituzioni ma delle relazioni, Per cui, molto semplicemente, poi andiamo avanti, quando state per interagire con qualcuno che non conoscete, la relazione con questa persona esiste già nella vostra testa, prima che voi interagiate. Vi ponete già immaginando come l'altro potrà reagire, potrà capire quello che voi dite, eccetera. E modellate l'azione, mica tanto, cioè, non soltanto inconscio. Lei dice inconscio come consapevole. Sì. Beh, secondo me, quando voi, per esempio, pensiamo alla situazione di azione in caso di emergenza, voi state per interagire con soggetti che non avete mai visto, ma l'interazione sarà già largamente determinata dal modo in cui avete deciso di impostarvi. D'accordo? Ma questo, secondo me, funziona per qualsiasi tipo di interazione. Cioè, la relazione esiste sempre prima dell'azione. Sembra paradossale. Sembra paradossale, perché noi secondo me siamo abituati a leggere la relazione come un effetto di composizione di azioni, d'accordo? In realtà non è così. La relazione esiste prima, non c'è azione se non c'è relazione. E Nietzsche ci fa capire come questo fenomeno sia un fenomeno che utilizza, no? Poi riapplica, eccetera. In modo per esempio usa il dilemma del prigioniero. No, la teoria dei giochi per farlo comprendere, no? L'agire cooperativo ed è molto interessante, naturalmente, no? E ci aiuta perché ci fa capire che non, un punto di vista che non sia relazionale ci fa perdere un grosso pezzo nella comprensione della realtà, okay? Bene, la società si attualizza, diventa visibile solo attraverso le relazioni che connettono gli individui. L'identità dell'attore sociale è il risultato dell'appartenenza a una molteplicità di sfere relazionali, questo l'abbiamo visto, è proprio l'esempio tipico dell'intersezione tra cerchi sociali. La realtà della modernità non è più fatta di reti concentriche, ma di reti poste in uno spazio multidimensionale che si interseca in alcuni punti, e questo è chiaro. Cioè, qui si vuole dire una cosa in più, come vi avevo detto prima, che questo non è semplicemente un approccio tra gli altri, una prospettiva, un paradigma che ci dà più conoscenza rispetto agli altri, ma che per come funziona la società contemporanea, questo è particolarmente, ci dà più conoscenza non solo per gli aspetti metodologici, ma perché la realtà ormai si configura sempre più in questa maniera, piuttosto che come box dentro il quale inserire gli individui. La logica, questa è la prospettiva, la logica di ragionamento, tre punti, tengo fede alla promessa iniziale, approfondendo questi tre punti, che sono quei punti che ripercorre la Di Nicola per presentarci il paradigma di rete, ok? Quindi la prospettiva l'abbiamo approfondita. Che cosa vuol dire la logica di ragionamento? Cioè, come si fa a spiegare il comportamento dell'individuo? Come ragiona lo studioso che usa il paradigma relazionale, il paradigma di rete per comprendere l'agire degli individui? No, anche qua, l'abbiamo anticipato adesso. Per questo dico che funziona questo modo, perché se si anticipano i temi prima che arrivi la slide, vuol dire che siamo dentro un percorso che sta funzionando, secondo me, d'accordo? Però naturalmente questa è la mia percezione della realtà, credo non avere niente. Cosa mi dice lei? Il suo parere mi è di conforto. No, concordo. Benissimo, la ringrazio. Allora, il comportamento di ego, cioè l'attore sociale, non può essere spiegato solo in base a variabili indipendenti considerate centrali e discriminanti in assoluto. Cioè, non possiamo spiegare il comportamento. Pensate, per esempio, in che modo si è spiegato il comportamento elettorale fino a 20 anni fa? L'appartenenza di classe era altamente predittiva rispetto al comportamento elettorale. Io mi ricordo una delle prime volte che appena arrivato qua ci furono delle elezioni regionali, avevo cercato un po' di capire quali erano i quartieri più operai della città e quelli più residenziali, eccetera. Guardo i risultati di queste elezioni, che sono particolarmente significative, perché nelle elezioni regionali, come nei referendum, eccetera, è più probabile che chi voti in base a un'appartenenza ideologica piuttosto che per il voto di scambio, per esempio, d'accordo? Le elezioni amministrative sono invece molto collegate alla persona che si vota, quindi anche possono essere votate persone al di là dell'appartenenza, perché chi vota, lo conosce personalmente, ha già operato, eccetera, eccetera. E fui piuttosto colpito nel vedere che nei quartieri tendenzialmente operai della città, i partiti di estrema sinistra sostanzialmente non c'erano, cioè non esistevano di sinistra e estrema sinistra, che invece erano, avevano la maggiore quantità di percentuale di voti nelle circoscrizioni dei quartieri più ricchi della città, per intenderci Borgo Trento, il centro, eccetera, no? Allora capite bene che sì, vi ricordo che Magrappa di Robert probabilmente rimane perché ci può anche essere un nesso tra un titolo di studio e un certo tipo di voto, insomma, bene, però bisogna, come si fa a saperlo? Non si può sapere qual è, no? E quindi voglio dire, non, è difficile trovare variabili che siano discriminanti in assoluto per il comportamento. Ho fatto l'esempio del comportamento elettorale, ma ne potrei fare altre. Il comportamento di ego non dipende dal suo livello di conformità alle aspettative di ruolo, ovvero dalla pressione esercitata dalle istituzioni, ma dalle caratteristiche delle sue reti di riferimento. Ego entra dentro la struttura sociale attraverso le reti, non per le istituzioni, per cui se è, diciamo così, a parità di istituzione dal punto di vista amministrativo, un funzionario può agire in maniera diversa perché percepisce delle aspettative diverse che sono collegate alle relazioni particolari che ha dentro il contesto in cui si trova. Ogni attore sociale partecipa, cioè dà vita a più reti sociali che tramite il gioco delle relazioni sociali sono sempre multiple, cioè messe in comunicazione tra di loro. Quando noi interagiamo mettiamo in comunicazione mondi relazionali diversi che non erano in collegamento fino a quel momento e possono nascere anche altri legami, ma in ogni caso c'è una relazione tra reti distinte. E infine l'attore sociale agisce liberamente ma sempre entro un sistema di vincoli, questo è molto importante, poi ci torneremo anche quando vedremo Chiesi. La struttura sociale allora che cos'è? È allo stesso tempo una risorsa ma un vincolo, perché è una porzione di struttura alla quale noi abbiamo accesso, con la quale siamo in collegamento, ma non è tutta la struttura. Non è tutta la struttura, d'accordo? Quindi nel momento in cui è una risorsa è pure un vincolo, perché è una selezione all'interno della struttura. Il sistema dei vincoli non è qualcosa allora che esiste al di fuori dell'individuo, non è un fatto sociale esterno, non è un'istituzione, non è, è una come dire, è una realtà che sta al di là delle reti, ma è il risultato delle caratteristiche morfologiche, strutturali delle reti sociali di appartenenza e dalle posizioni che in ciascuna di esse occupa l'attore sociale. Infine l'attenzione allora deve essere posta non sui fenomeni costi nella loro staticità, ma sui processi che portano ai fenomeni. Qui c'è il tema del tempo nello studio delle relazioni, dovrebbe essere sempre uno studio diacronico, perché c'è questa processualità ed è una probabile obiezione che si può fare utilizzando l'impostazione arceviana, una sorta di conflazione più centrale, d'accordo, in cui si mescolano assieme individui e istituzioni dentro le reti, e però lì non si capisce, poi in maniera analitica diventa difficile, però la mia idea è che basta inserire il tempo nello studio per vedere qual è il modo in cui poi gli individui, a partire da alcuni vincoli, retroagiscono sulla struttura modificando eccetera. E infine le teorie. E qui vediamo rapidamente le tre teorie che vi presentate nel vostro manuale. La prima teoria strutturale, io su questo non aggiungerei granché, nel senso che è sostanzialmente riassumibile nei cinque principi generali di Wellman che abbiamo visto proprio in apertura di questa lezione, d'accordo? Le relazioni sociali sono un mezzo potente di spiegazione dei fenomeni sociali, di quanto non siano gli attributi e le caratteristiche individuali. Vale quello che abbiamo detto, cioè, diciamo c'è un approfondimento rispetto a quei principi. Poi c'è la teoria dello scambio, vi ricordate lo scambio, ne abbiamo parlato poco fa, eh? La struttura sociale è costituita, deve essere saltato qualcosa nel passaggio dal programma all'altro, eccolo qua, La struttura sociale è costituita dalle connessioni che si formano quando le persone realizzano e mettono in atto ripetuti scambi. Considera la teoria dello scambio la rete come l'ambito strutturale a confini variabili ma non indefiniti che determina qualcosa, quando e come e con chi scambiare. Se dovessi dirvi come, ti verrebbero in mente delle differenze? Mi rendo conto che come scambiare? Ci sono le tre, per esempio, i tre principi, d'accordo, no? Per esempio i tre principi, cioè scambiare non vuol dire una cosa sola, ma ci può essere il principio dell'equivalenza, della redistribuzione e del dono. Benissimo. Cioè, quindi se utilizziamo questo approccio vediamo come la struttura sociale si costruisce, per esempio utilizzando il dono, o si distrugge non accettando l'invito a un matrimonio, d'accordo? Io decido di intervenire sulla struttura sociale, dico guarda mi dispiace ma è tempo che tu sappia, mi senti qua, dico tu, la tua futura moglie, no? Sapete cosa mi capita? Tutti i parenti, sapete cosa mi capitò? Naturalmente, ecco, sempre da tenere, andai ad una cena con una villa celibata di un amico, lì ce n'era un altro di questo amico, un amico comune, con la sua fidanzata, e mi disse, ma ti presento, eccetera, dico, ma guarda che la conosco, mi ha già presentato qualche mese fa. Dice, ma come te l'ho presentata? Non è possibile, no? E ha iniziato a farmi delle... Dico, ma scusa, non è quella che lavorava al negozio lì al centro commerciale? Cioè, no, quella... Dice, no, quella è un'altra. E io gli ho detto, ma non è colpa mia se le scelte tutte uguali. Da quel momento, questa subito si era anche sposata, questa ragazza. Non mi ha mai più rivolto la parola, cioè non mi ha rivolto la parola mai, si può dire. Da quel momento in avanti. Capita la stessa cosa proprio. Cioè, sì, come no? No, veramente la stessa cosa. Un amico mio, veramente era un'altra. Vedete che c'è una ragione se gli studenti scelgono questo corso. Io se fossi in voi interrogerei parecchio, d'accordo? Perché sono già stati segnati in passato da qualche fatto traumatico. Traumatico a livello relazionale, però ce lo consente. Ok. A livello strutturale. Benissimo. Allora, se consideriamo lo scambio, chiaramente non possiamo mettere quei principi tutti sullo stesso piano, ma alla fine quello che ci interessa è capire come, per esempio, in ambito, diciamo così, di intervento, io non escluderei anche la possibilità di favorire la creazione di una struttura sociale che magari non c'è o che deve essere rinforzata, favorendo qualche tipo di scambio, in maniera anche artificiale, cioè mettendo una risorsa di redistribuzione, anche se quella risorsa non ha un'utilità pratica immediata, però può essere utile per creare dei legami, una rete che poi può essere usata, sono termini magari non belli, ma voglio dire una rete che può essere utile per le finalità che abbiamo, che sono senz'altro delle buone finalità come erogatori di un servizio di assistenza. Allora, utilizzare una qualche idea di un qualche principio di scambio, poi vedremo qualche, diciamo, a livello di tecniche di ricerca si usano questi esperienti per far emergere le reti. Cioè, per esempio, è un tipo di campionamento, si chiama campionamento small world, ma poi lo vedremo in maniera analitica. Per esempio, voi volete stimare qual è la distanza tra un certo gruppo di soggetti e un soggetto obiettivo. Okay, vi interessa sapere quante mediazioni ci sono tra un gruppo di soggetti, tra i soggetti che fanno parte di un gruppo e uno che può essere, non so, un politico, un erogatore di un certo servizio, eccetera. Allora fornite dei diari a queste persone, gli dice, se non lo conosci direttamente, segna il nome della persona che tu conosci, secondo te più vicina, cioè, se è il Presidente della Repubblica e cioè avete un amico consigliere comunale, scrivete il nome di questo amico e poi consegnate il diario a questo amico, lui dovrà fare lo stesso. No? In questo modo voi stimate se c'è il modo di arrivare al soggetto obiettivo e quanti sono i passi che il network dovrebbe attivare per far arrivare un'informazione, una richiesta, una risorsa al soggetto obiettivo. Bene. Allora, questo è un modo per far emergere delle reti rispetto a un soggetto obiettivo come tecnica di ricerca, ma noi le possiamo creare alla stessa maniera. Come è sgoculato? Cioè, per andare a un soggetto obiettivo, come mi faccio? No, allora, una tecnica di questo tipo è stata utilizzata per stimare qual è la distanza media di mediazione che ci sono, cioè tra due cittadini militari, avete presente le dimensioni, no? Come sì. E mi pare che il dato sia 5,2, poi vedremo il dato perché l'ho messo in una slide, 5,2 mediazioni tra due cittadini statunitensi presi a caso. Non è molto, se ci pensiamo, ma cioè si può utilizzare per stimare, noi siamo molto più vicini tra di noi grazie alle mediazioni. C'era una cosa che diceva su internet, che diceva che non so in quanti passaggi tu riesci a in Italia a raggiungere una persona X famosa, tra virgolette. C'era anche per dire una persona famosa, che dice chi la conosce, ci sono tipo 2-3 passaggi per arrivarci. Sì, ci sono delle indagini fatte in questo tipo di famosi gradi di separazione, cioè, di parlare. Cioè una bestia tra molto bella. È un po' simile alla. Conoscete il teorema di Pasolini? Di Marco Cappato. Ah di Pasolini, sì, no? Sì. Ecco, è quello che diciamo è interessante perché lì dice che naturalmente c'è questo soggetto che sconvolge un po' l'intero nucleo familiare, no? E c'è una pièce teatrale di John Wells, si chiama l'autore, si chiama Segreti di separazione, che fa vedere come millantando, che naturalmente è una cosa teatrale, no? Millantando dei legami un soggetto riesca a sconvolgere una relazione familiare che invece era molto solida, eccetera. Ma allora adesso al di là dell'esempio sono indagini che possono servire, però ho provato a girarla dal punto di vista tra virgolette terapeutico, cioè noi possiamo utilizzare il passaggio di qualcosa per stimolare anche la creazione di legami che magari poi saranno usati per fare altro, ma intanto nasce, si istituisce il legame. Vedo lo scambio, è la teoria che dice a partire da queste forme di scambio possono nascere delle strutture. Tutte le strutture però esistono come legami e la particolarità del dono, della ricordo, è che non usi in maniera strumentale il legame, ma serve al legame per... E poi c'è la teoria relazionale. La teoria relazionale è diciamo, la teoria di Pierpaolo Donati. Io sono un allievo di Pierpaolo Donati, una scuola di sociologia dell'Università di Bologna. Ho studiato con lui, ho fatto il dottorato di ricerca con lui, quindi sono, ho vissuto, vivo molto a contatto con questo approccio teorico che non prevede di per sé una network analysis. Anzi, la teoria relazionale di Donati ha, e la di Nicola lo sottolinea all'interno del testo, identifica i limiti della network analysis che sono legati a un eccesso nell'analisi strutturale e invece una minore attenzione per la dimensione culturale, propriamente umana, delle azioni individuali. Quindi l'accusa è quella di strutturalismo. Quando c'è un ismo come suffisso in un termine, in genere c'è sempre una qualche eccezione negativa, d'accordo? Per esempio il ricorso a un eccesso di argomentazioni sociologiche per spiegare l'azione umana, in genere chiamato sociologismo, e lo strutturalismo è una forma di sociologismo, d'accordo? Cioè un eccesso appunto nel ricorso ad argomentazioni che siano collegate a ciò che è esterno all'individuo, alla struttura sociale, eccetera. Allora qui abbiamo il riferimento alla teoria relazionale di Donati. Donati ritiene che il concetto di relazione, Donati ritiene che la relazione sia il concetto primo. Non è definibile il concetto di relazione, è soltanto semantizzabile. Ha una valenza ontologica di per sé, la relazione sociale. La relazione sociale è reale in quanto è propriamente umana, presuppone degli agenti, delle persone, ma ecco, in teoria relazionale della società lui presenta dei principi nella parte introduttiva e scrive proprio all'inizio c'è la relazione, cioè la relazione è ciò che dà vita concettualmente, quindi il legame filosofico con la filosofia è fortissimo, in modo particolare poi in riferimento ad Aristotele come troverete. E adesso cercheremo un po' di capire come fa a semantizzare il concetto di relazione, l'approccio relazionale, no? In effetti, uno dei volumi che potrete leggere per l'esame, Sociologia relazionale, Social Network Analysis, è proprio un tentativo che io ho fatto di accostare la sociologia relazionale di Donati all'utilizzo della network analysis. È sempre bilaterale, in quanto la sua intima natura sociale, soggettiva e strutturale, dal fatto che il sociale non consiste nell'essere collettivo, quanto nello stare tra termini capaci di agire simbolico, cioè individui, mentre l'azione può essere unilaterale e può essere concreta, può essere in atto, potenziale la relazione, mentre l'azione è per definizione attività, quindi c'è una relazione che esiste ontologicamente, non necessariamente accade, quindi il sociologo deve essere quello che distingue analiticamente i due passaggi, può essere concreta, storica, cioè osservabile, esperibile, in re, nella cosa, qui in quello che avviene, oppure pensata come è possibile dall'osservatore, può essere impersonale o personale, quindi intersoggettiva, le interazioni tra individui, oppure tra le dimensioni del sistema, dei sistemi sociali, benché normalmente la relazione avvenga nel medium della comunicazione, non si può ricondurre alle categorie linguistiche e infine a carattere sovrafunzionale. Ecco, questo è molto importante, perché poi Donati utilizza uno strumento analitico che è lo schema AGI, che lui elabora in chiave relazionale, che proviene dalla sociologia funzionalista di Tucker Parsons, però dice che la relazione è sovrafunzionale, cioè non è mai completamente riducibile alle funzioni che sa sempre esplicare. Facciamo un esempio molto semplice: producete un legame attraverso uno scambio, ma questo legame, questa relazione che voi producete tra due individui, ha per sua stessa caratteristica ontologica il carattere della sovrafunzionalità, cioè può produrre qualcos'altro, più funzioni rispetto a quelle per le quali i soggetti la costituiscono. Voi vi rendete conto della portata di questa affermazione? Produrre una relazione significa costituire un livello di realtà, che poi è il livello primo, quella che costituisce, consente di tematizzare verso la realtà sociale, capace di essere sovrafunzionale, di essere utilizzabile per altro. Ecco, lo schema che utilizza Donati per semantizzare la relazione, questo è utile perché poi la Di Nicola parla direttamente delle semantiche della relazione, quando parla della sociologia relazionale, invece io penso che, visto che abbiamo l'opportunità di parlare insieme, questa introduzione più generale, quindi questo è un approfondimento rispetto al testo, vi consenta poi di superare con più forse agio e facilità questa parte. Allora, Donato utilizza lo schema AGI. Che cos'è lo schema AGI? Lo schema AGI è uno schema analitico con referenti empirici, però introdotto da Tucker Parsons. Ora, vi ricordate Tucker Parsons? Ne abbiamo parlato ieri, quello delle pattern paradox, no? Tucker Parsons è un funzionalista, d'accordo? Teniamo questo a mente, ok? Che cos'è lo schema AGI, per come è stato introdotto da Parsons? È una costruzione logica che ha una portata realistica della rappresentazione della realtà sociale. Questa presentazione è tratta direttamente dal volume di Donati del 1991, Teoria relazionale della società. È una bussola sociologica perché è uno strumento con capacità di indagine utile ad orientare l'analisi teorica dei fatti empirici. E adesso capiremo perché lo schema AGI è utile. Qual è lo scopo di Parsons? Parsons dice che per svolgere un'azione occorrono delle risorse, sostanzialmente, e poi questa azione produce produce dei risultati. Ok? Però questo spazio, cioè l'azione di per sé, è una sorta di scatola nera. Una black box. Noi dobbiamo capire che cosa succede qua dentro. Allora, il primo tentativo, la prima cosa che ho provato a fare, sono stata quella di fare luce sulle dimensioni dell'azione. Quindi lui parte dall'azione, ok? L'azione è una qualsiasi azione svolta da un individuo. Secondo Parsons, lo unitent, cioè l'atto elementare, cioè l'azione sociale, è l'oggetto principale della teoria sociologica. Poi vedremo che perdonate la relazione, d'accordo? Però Donati usa questo strumento che rielabora in chiave relazionale. Però prima di vedere come lui l'ha rielaborato, gli diamo un'occhiata, no, rispetto alla... Ecco, Parsons studia quindi l'azione sociale. Come fa a studiare l'azione sociale? Prova a fare luce dentro questa black box, azione sociale, questa scatola nera, per identificarne le componenti, per provare a scomporre le componenti dell'azione sociale e poi a ricomporle secondo il senso che hanno nella misura in cui stanno assieme tutte le componenti. L'azione deve prevederle tutte. Ok? Allora cominciamo a isolare l'ambito della black box. L'azione sociale è una black box che sta fra due tipi di condizionamenti. Ok? Quali sono i condizionamenti dell'azione sociale? I vincoli materiali e anche, se c'era anche il disegno proprio, e i condizionamenti, facciamo così per comodità, lo mettiamo qua, e la realtà ultima, l'universo dei valori. Allora, io adesso vorrei che voi deste un contenuto pratico a queste cose, se no rimane tutto, no? Che cosa vuol dire che l'azione è condizionata dai vincoli materiali? Faccio un esempio aulico di azione. L'atto elementare, che fra l'altro mi un atto che inizia ad essere una persecuzione anche nei miei incubi notturni, è quello di dover cambiare l'automobile per ragioni di esplosione familiare all'interno di quella che ho adesso. Allora, se io devo andare a comprare, sarà un'azione sociale comprare l'automobile, no? Vai dal concessionario e compri l'automobile. Questa azione, perdonatemi per l'autoreferenzialità dell'esempio e la scarsa audicità dell'esempio, è condizionata da dei vincoli materiali. Quali sono i vincoli materiali che mi condizionano? Quelli che poi incidono anche sul fatto che si presenti come incubo, la stessa cosa nel corso della notte, d'accordo? Ma non è condizionato soltanto da quello, pure dalla realtà ultima, cioè dai miei valori. Il fatto che compri un'automobile piuttosto che se non ho bisogno di una familiare, ci sono tanti tipi di macchine capienti, d'accordo? A parità di vincolo materiale ci può essere anche un riferimento valoriale, no? Che ti spinge maggiormente a comprarne una fatta in un certo modo, oppure un'altra fatta in un'altra maniera, perché ci sono delle grosse differenze. Vedi, adesso porto questo esempio perché è altamente improbabile come esempio di azione valoriale, ma ogni volta che noi facciamo azioni che forse hanno un contenuto di riferimento ai nostri valori ultimi maggiore rispetto all'acquisto di un'automobile, mettiamo in campo sia i vincoli materiali che i valori per compierlo, d'accordo? Sono condizionamenti nel senso che la nostra azione, gioco forza, dovrà operare una selezione dentro le risorse materiali disponibili e dentro tutto l'universo di valori disponibili. Non possiamo scegliere tutti, ne metteremo in campo alcuni, che sono quelli che noi preferiamo quando agiamo, d'accordo? Uno attiene più al desiderio, no? Ma il desiderio, faccio un esempio, no? Passeggia, c'è un colpo di fame, uno di quei colpi di fame, non so spiegare da mai, che sono irresistibili, no? Cioè, dove devi mangiare, no? A mangiare, Naturalmente per comprarsi qualcosa servono, serve il fatto che noi controlliamo una piccola quantità di risorse disponibili e che questo controllo stia nelle nostre tasche in questo momento. Però per quanto possa io avere fame, se sono un vegano e passo davanti ad un fast food dove fanno dei gran panini al manzo, eccetera, io là dentro non ci potrò entrare, d'accordo? Se sono un vegano. Quindi questi sono entrambi condizionamenti molto forti per l'azione. Allora Paston si dice, beh, io voglio vedere come questi condizionamenti che ci sono entrano dentro il sistema dell'azione. Quindi quali sono le componenti dell'azione dentro le quali questi condizionamenti entrano e alla fine ci consentono di agire in un modo invece che in un altro. È chiaro il problema di Parsons, qual è? Ok, questo è lo schema dell'azione, secondo Parsons. L'attore è il soggetto, è colui che compie l'azione. Quest'ultima è scomponibile in quattro dimensioni fondamentali. L'azione, vedete, due punti, questa è la black box. Mezzi, fine, nome e valore. Ogni azione, ogni singola azione è scomponibile in quattro diverse dimensioni. Si agisce usando dei mezzi, cioè delle risorse che sono quello che noi possiamo controllare, delle condizioni materiali, vincolo materiale, questo è il contatto, e dove c'è il massimo di energia, l'ES di Freud. Lì entra l'energia per l'azione, dove ci sono i mezzi. L'azione deve essere finalizzata a uno scopo, un fine. Ok? Quindi devo avere i soldi in tasca, devo avere lo scopo di comprarmi un panino perché sto morendo di fame, fine. Devo rispettare delle regole, cioè devo entrare in un negozio, mettermi in fila, se c'è una fila, fare lo scontrino, pagare e poi andare a ritirare il panino dove lo distribuiscono, e l'azione ci avrà dei valori, per cui se sono un vegano il panino sarà fatto di cose che non hanno avuto niente a che fare con gli animali, questo credo che sia grosso modo, d'accordo? Naturalmente i valori che io uso per la mia azione sono una selezione di tutti i valori che noi possiamo riferire alla realtà ultima. Cos'è un valore? Qualcosa che ha uno scopo, che appunto ha un valore in sé, degno di essere perseguito per quello che è. I valori fanno parte del pacchetto ideologico di una certa cultura, d'accordo? L'ideologia non è un concetto negativo, è una componente fondamentale della cultura. Elementi di base, linguaggio e ideologia sono questi gli elementi fondamentali della cultura, va bene? Ma il fine e le norme sono condizionamenti materiali? No, il fine e le norme sono le regole e lo scopo che consentono, che rendono necessaria l'azione, d'accordo? D'accordo? Allora, dopodiché Parsons dice, bene, l'azione funziona così, ma io posso generalizzare questo sistema di azione, appunto, passando dallo schema dell'azione al sistema di azione, e comincia un processo di generalizzazione che alla fine lo porta dall'applicazione dall'identificazione di quei quattro prerequisiti, mezzi, fine, norme, valori per l'azione, all'intero sistema sociale. Ok? Opera questo processo di generalizzazione. Generalizzando è possibile passare dallo schema dell'azione al sistema di azione. In questo modo si può comprendere attraverso lo schema AGI l'intera realtà sociale. Di che cosa è fatta la realtà sociale? La realtà sociale è fatta di condizioni, che sono le condizioni materiali, quelle che noi troviamo, le risorse disponibili, quelle utilizzabili, le risorse naturali, eccetera, da organismi o sistemi comportamentali, dal sistema della personalità, che dà lo scopo. È a partire da questo sistema che gli individui scelgono che cosa fare, che cosa preferiscono, eccetera. Possiamo leggere in parte questo fenomeno come collegato anche al processo di socializzazione, anche se è un tentativo di sociologismo, se volete, il sistema sociale e poi il sistema culturale o realtà ultima, cioè non o realtà ultima, che è una selezione, è condizionato dalla realtà ultima, cioè dalle, dai, dai, dai contenuti culturali disponibili. E alla fine propone un'ultima generalizzazione. Adesso io mi perdonerete, ho provato a semplificare naturalmente questa. Quattro, diciamo, i quattro passaggi dell'azione sono diventati il sistema di azione in quattro sistemi. Esatto, sotto. Esatto, esatto. I fini, le regole, le risorse e i valori si trovano dentro sistemi diversi, ai quali naturalmente gli individui fanno riferimento, perché chi agisce è sempre l'individuo, d'accordo? Il sistema di azione è concepibile infine come l'insieme di quattro prerequisiti funzionali: il prerequisito dell'adattamento, il prerequisito della realizzazione delle mete, il prerequisito dell'integrazione. Quindi l'adattamento, perché si chiama adattamento? Perché adattarsi adattamento alle risorse, che in inglese è adaptation. Attraverso le risorse e il controllo delle risorse, i soggetti sostanzialmente riescono ad agire, cioè adattano la loro volontà a quello che riescono a controllare. Quindi le risorse, il prerequisito della realizzazione delle mete, adesso puoi indovinare, l'integrazione, integration, e infine la latenza. A, G, I, U, L. Ecco lo schema agico. Ok? La slide successiva ci spiega, in maniera più leggibile di quanto io abbia fatto adesso la lavagna, la nascita del l'acronimo, appunto l'acronimo AGI. A per adaptation, mezzi; G, goal attainment, fine realizzazione delle mete; I, integration, cioè le norme; L, il mantenimento, latency pattern maintenance, cioè mantenimento del modello latente, i valori, il mantenimento del modello latente, cioè ciò che c'è ma non si vede, nessuno ha mai visto i valori in circolazione, però ci sono, e attraverso le azioni noi riproduciamo i valori, e quindi attraverso la selezione che facciamo contribuiamo alla riproduzione, al mantenimento del modello latente per le azioni. Qui naturalmente c'è il massimo del controllo. Se volessimo utilizzare una gerarchia cibernetica per mettere in fila queste cose, troveremmo il massimo delle risorse, dell'energia nei mezzi, e il minimo dell'energia nei valori, e il massimo del controllo nei valori. Il vegano che si controlla, potremmo fare l'esempio, controlla la sua azione non entrando dentro un fast food dove vendono solo panini con tre etti di carne all'interno, ok? Ecco, ogni sistema per funzionare deve far fronte a queste quattro esigenze. AGI allora individua le quattro dimensioni analitiche delle azioni. E se voi fate caso, ogni sistema sociale può essere scomposto in queste quattro dimensioni. È molto potente lo schema AGI, eh? È molto potente lo schema AGI. Potete anche, se volete, possiamo anche provare. Fate qualsiasi esempio di un sistema, di un'organizzazione, qualunque. Principio, non so se attinente, della società come strutturata, no? Che è fatta dalla la libertà, no? Che si intersecano, la libertà individuale. Lo vuole applicare a che cosa lo vuole applicare? A un sistema organizzato come la società contemporanea, in cui per esempio i bisogni dei singoli si devono interfacciare con quella che è la... No, però guardi che, cioè, quello che vogliamo spiegare all'università, l'università, il controllo delle risorse, cioè le risorse, se non utenti l'università, cioè il finanziamento pubblico, centrale, le tasse degli studenti, qualche bene che produrrà qualche rendita se ne hanno l'università, e queste sono le risorse a disposizione dell'università. L'università come istituzione ha gli scopi. G, A, adaptation, G, quali sono le scopi dell'università? Ma sostanzialmente la formazione e la ricerca scientifica, d'accordo? Ok? Poi c'è anche la terza missione, adesso, no? Della quale si parla molto, che è appunto l'azione sul territorio, per il sostegno del territorio, nelle varie fine, in ambito di persone. L'università esiste perché ha degli scopi, se no non avrebbe senso l'università. Poi l'università I, integration, ha delle regole, caspita se ce le ha, c'è uno statuto, c'è un regolamento di Ateneo, ogni sottostruttura dell'università ha le sue regole interne, ha i suoi regolamenti per la gestione di ogni minimo aspetto. Tutto questo pacchetto di regole è il sottosistema integrativo dell'università. L'università ha dei valori di fondo. Parliamo di università italiana, la libertà della ricerca, la libera formazione. Naturalmente questo non vale per ogni paese, d'accordo? In altre situazioni probabilmente non è così per tutte le università. Ma ha altri valori. C'ha altri valori, per esempio. Lo schema. L'università pubblica italiana non ha valori religiosi di riferimento. Non trovate scritto da nessuna parte il mantenimento della fede, eccetera, non ha niente a che fare. Ci sono università che invece hanno forti fondamenti religiosi, d'accordo? Potremmo dire che è laica da questo punto di vista. È una selezione particolare di valori che stanno dentro l'istituzione, d'accordo? Le nostre famiglie sono dei gruppi informali che possono essere scomposti a partire da queste quattro funzioni. Cioè lo schema AGI è potentissimo dal punto di vista analitico, è potentissimo. Parsons ci arriva ragionando sull'azione, poi lo generalizza all'intero sistema sociale. La famiglia ha delle risorse, ha degli scopi, e tutti noi sappiamo quali sono gli scopi che le famiglie nella quale abbiamo, la famiglia di origine, la famiglia che abbiamo prodotto, eccetera, hanno quotidianamente, ha delle regole di funzionamento all'interno. Se non ce le ha, ci sono anche dei, possono essere, o se ce le ha fatte in un certo modo. Vi ho parlato di Jacques Lotré, ricordate Jacques Lotré, vi ho parlato ieri, è un psicologo, psicometrista, che è esperto di test di intelligenza, eccetera, che ha studiato utilizzando l'approccio di Piaget come il tipo di professione del padre ha determinato, può determinare a Parigi, eccetera, con le famiglie parigine, il rendimento scolastico dei figli. Ecco, alcune regole familiari o l'assenza di regole incidono negativamente sul rendimento scolastico. Le famiglie hanno dei valori, dei valori che possono essere anche religiosi, civici, civili all'interno, che tendenzialmente riproducono, ok? Cioè in qualsiasi struttura sociale ogni cosa, bisogna ritrovare queste cose qui. Ogni cosa, attenzione, e qua io faccio richiamo al fatto che Parsons è stato un funzionalista. Queste sono quattro funzioni. Il modello AGI si chiama anche schema quadrifunzionale, i quattro prerequisiti funzionali di ogni sistema sociale. Ogni sistema deve fare fronte, e come possiamo facilmente capire, l'esempio dell'università, l'esempio della famiglia, eccetera, le risorse sono una selezione rispetto ai vincoli materiali e i valori una selezione rispetto alla realtà ultima, cioè a tutti i valori disponibili. Ok? Per cui l'università non può essere religiosa e laica allo stesso tempo. Può essere confessionale e secolarizzata. Oppure la persona non potrebbe essere affamata e non affamata allo stesso tempo. Beh, oddio. però magari potrebbe essere affamata e non sembrarlo, oppure fare il contrario. Però hanno tutte le sistemi sociali hanno il fine. esistono per raggiungere, questo è tipico anche delle, al di là dell'analisi funzionalista, è tipico dell'analisi istituzionale. Le istituzioni esistono sempre per uno scopo. Per esempio, prendiamo tutte le istituzioni militari, ok? Le istituzioni militari esistono, possono essere concettualizzate come una esternalizzazione in contesti che sono cresciuti rispetto alla complessità, alla quantità di soggetti, eccetera, della funzione di controllo delle famiglie. Esistono per la funzione di controllo, che però hanno anche le famiglie. Tutte le istituzioni possono in effetti essere lette come una esternalizzazione di funzioni che sono originariamente gestite dalla famiglia, gli ospedali, nella loro funzione di controllo, nella riproduzione dei membri della società, eccetera. Questo si spiega piuttosto agilmente quando si guarda in che modo nell'evoluzione dei contesti sociali è cresciuta la disponibilità di risorse, quindi è cresciuta la dimensione delle società. Questo ha richiesto delle istituzioni. La burocrazia, per esempio, è un modo di organizzare, ma finora il problema è che non è stato trovato uno che funzioni meglio. D'accordo? Questo non sto dicendo che non abbia dell'architettura, ci sono alcune cose che sono diventate di per sé negative. Burocrazia è una cosa negativa, non è vero. L'ideologia è una cosa negativa, non è vero. Ditemi una cultura che non abbia un'ideologia di riferimento. Non esiste una cultura che non abbia un'ideologia di riferimento. Non è un concetto di per sé negativo. La burocrazia è una modalità di organizzazione diversa dai gruppi carismatici, diversa dalle organizzazioni volontarie, diversa dai gruppi primari, che serve a gestire tante risorse per tante persone. Okay? Quando ne sarà trovato un modo migliore rispetto alla burocrazia, probabilmente sarà utilizzato, d'accordo? Ecco, però, quando per esempio si parla dell'abrogazione degli enti inutili, lì probabilmente manca la G. Uno dei punti deboli delle burocrazie, per esempio, è la capacità di resistere a ogni forma di modifica e di soppressione. È una capacità strutturale, no? E gli enti inutili, cioè quelli che non hanno più uno scopo perché è stato completamente esautorato da altri enti che sono arrivati dopo, eccetera, eccetera. È stato il caso anche di alcuni istituti di ricerca italiani che a un certo punto sono confluiti in altri più larghi, no? Più ampi. È una capacità strutturale di resistere a queste forme di modifica, pur in presenza, o meglio in assenza, di un fine chiaramente riconoscibile. Chiaramente questo è un punto debole della burocrazia, qualcosa che, cioè, i quattro elementi sono così strettamente connessi che al variare di uno variano anche gli altri tre. Diminuendo i mezzi, le risorse a disposizione, naturalmente c'è una... Allora, ci possono essere... Ma scusi, se noi siamo affamati, lo scopo è quello di mangiare. Se dopo io ho un euro anziché a darne 10, ovviamente mangerò qualcosa di diverso. Dunque, l'azione è determinata sempre da quello scopo lì. Cioè, io non la vedo variabile. E io invece, esempio, parlando di strutture sociali. Diciamo che stavo iniziando a scrivere. Non è che di per sé sia variabile. Facciamo il caso della burocrazia, no? Quali sono le fonti di incertezza, Thompson, nella burocrazia? Il mix tra obiettivi certi o meno e mezzi certi o meno per raggiungere questi obiettivi, d'accordo? Allora ci possono essere degli obiettivi chiarissimi. L'esempio che faceva il suo collega è questo, cioè di sfamarsi, però questo non di per sé non determina una modificazione delle risorse disponibili. Noi non dobbiamo dimenticare che i due punti di accesso al sistema, ogni sistema è una porzione del mondo sociale, quindi è una piccola parte che vive in osmosi col resto. I punti di contatto stanno qua. Okay. Quindi se qui non ci sono le risorse sufficienti non riuscirà neanche a sfamarsi. Se una burocrazia, un'istituzione ha delle chiare finalità ma non già le risorse, non le raggiunge le finalità, come la struttura sociale, se non ha più i fini, cioè viene meno. Esatto, allora per esempio la sociologia relazionale dice: beh, queste quattro cose non sono dimensioni dei sistemi e delle azioni, ma sono dimensioni delle relazioni. Allora, una relazione è costituita di risorse che circolano, ha uno scopo, ha delle regole e ha un valore, dei valori che la guidano, e quindi applica lo schema Agile alla relazione. Questo è l'esempio dell'applicazione alla relazione di cura in famiglia, ok? I mezzi, ed è particolarmente calzante perché noi qua ci dobbiamo occupare di relazioni di cura, d'accordo? Almeno non tutti i livelli di intervento, in caso di emergenza, però alcuni sì, d'accordo? Volontari, che cosa fanno? Sono anche azioni di cura, no? Devono produrre relazioni di cura, devono favorirne la nascita. Allora, questa è l'azione, relazione di cura in famiglia, supporto, azioni di sostegno. La relazione di cura ha bisogno di azioni di supporto, se no non c'è sostegno, non c'è cura. Il fine è quello di rinsaldare, di rafforzarsi reciprocamente. Le regole sono regole integrative, e alla fine il valore di base, tra i valori c'è il valore di farsi carico, l'essere responsabile, l'adesione libera, eccetera. Una delle applicazioni più significative dello schema Agile fatto dalla sociologia relazionale è quella dell'intero sistema societario. Noi possiamo identificare le dimensioni del sistema sociale più ampio, che possiamo chiamare societario se volete, e qui in A abbiamo il mercato, che si occupa di che cosa? Il mercato si occupa di produrre e redistribuire risorse per le azioni di tutti. Se noi volessimo applicare il mercato e lo schema Agile, scusate, a livello sistemico più ampio, in Agile dovremmo senz'altro mettere il mercato. Tutto il for profit sta qua, ok? Cosa ci mettiamo in G? Aiutatemi. Qual è quella dimensione della società che si occupa? Adesso io ho creato una sorta di presentazione schizofrenica, perché quello che sto scrivendo nella lavagna è un'altra cosa rispetto a quello che ho trovato nella slide. In realtà sono collegati tra di loro. Dovete avere un approccio relazionale nella lettura di questi due strumenti di comunicazione, no? Allora, qui abbiamo quello che serve per la relazione di cura. Se volessimo dire, trovare la dimensione della società che si occupa di produrre quello che serve per sfamarci, per muoverci, per vestirci, eccetera, io senza dubbio direi che il mercato, tutti gli attori di mercato si occupano di questo, di produrre risorse, di venderle, di commercializzarle, eccetera. Qual è la dimensione della società che si occupa invece dei fini? La dimensione della società, la politica, lo Stato, la dimensione politica della società. Qui stanno tutti gli attori, diciamo lo Stato in generale, no? Questa è la dimensione politica, che si occupa di decidere quali sono gli scopi da raggiungere. Dobbiamo ridurre il debito pubblico, quello è uno scopo, tutto si orienta verso quello scopo lì. Qual è il settore che si occupa dell'integrazione sociale? Le leggi o il Parlamento? Il? Le leggi. Che però, vediamo noi nella normatività. Io le leggi le metterei qua. Questa è l'applicazione della sociologia relazionale. Che cosa c'è in I? Il? Che cos'è che non è né? Potremmo anche dire, ecco, il mercato produce dei beni privati. Qual è la caratteristica del bene privato? Che si consuma in maniera competitiva. Ok? Se lui compra l'oggetto che voglio comprare io, era l'ultimo pezzo, è finito. D'accordo? Che cosa conduce lo Stato? dei beni pubblici che sono non competitivi. Io faccio sempre questo esempio, no? Noi ce la mettiamo sempre una forte differenza tra la posizione fiscale, i beni, ma se uno dovesse pagarsi privatamente tutto quello che fluisce, i marciapiedi, l'illuminazione pubblica, eccetera, ecco, una strada è un bene pubblico. È un bene pubblico. Se ci passa lui, non mi impedisce di passare anche me. Cioè, non, è un consumo non competitivo, d'accordo? Ecco. Che cosa c'è di diverso? Che cosa non è né pubblico né privato? C'è qualcos'altro? Ci sono pezzi di mondo che non stanno lì dentro finora? Devono essere quattro, eh? Devono essere quattro, ecco il funzionalismo. Devono essere quattro. Che cosa c'è qua? Però ci aiuta a pensare, adesso non ci viene in mente nulla, ma vedrete quando vi dirò che cosa sta qui, che è una cosa diversa rispetto alle altre. È il sistema che si occupa proprio di produrre dinamiche integrative, per esempio attraverso la reciprocità allargata. È terzo rispetto al primo e al secondo settore della società. È il terzo? Sì? Il terzo settore. Che cos'è il terzo settore? Volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, fondazioni sociali, questo non è stato e non è mercato. E non è mercato, ragiona secondo la logica, diciamo, del dono, sebbene con la reciprocità allargata, va bene? Quando noi abbiamo una situazione di emergenza, abbiamo attori che vengono da qua, prima o dopo, e attori che vengono da qua e ragionano secondo logiche diverse. Quelli che stanno qua dentro, i beni che produce il terzo settore, sono dei beni anche chiamati in ambito della sociologia relazionale beni relazionali secondari. Sono beni relazionali, cioè i contesti associativi producono delle relazioni che sono di per sé un bene per l'individuo, d'accordo? E possono essere prodotti e fruiti solo assieme dai soggetti. E che cosa c'è qua? C'è qualcosa che abbiamo omesso di considerare, secondo lei? Il valore del mercato, lo scopo, non far arrivare... No, questo è un'altra cosa, attenzione, qui stiamo parlando del sistema sociale generale, quindi il mercato sta qua, appunto, tutto quello che riguarda il mercato sta qui dentro, però la cosa che lei ha detto adesso mi dà spunto per un approfondimento che va fatto. Che cosa c'è qua che non è né mercato, né Stato, né terzo settore? L'individuo singolo. Per essere sociale. Ma l'individuo singolo, cioè gli individui vivono solo dentro il terzo settore, solo nella dimensione politica, solo nella dimensione economica della società. Quale altra dimensione vivono gli individui? Pensi alla Puglia. La comunità, cioè familiare. La famiglia, la comunità va benissimo, la comunità tiene dentro anche la famiglia. La famiglia, le reti di vicinato, le reti amicali, tutto quello che siamo abituati a chiamare anche quarto settore. Avete mai sentito parlare del quarto settore? Cioè, le reti informali, d'accordo? Che si occupano in modo consistente di riprodurre modelli di valore latente. Ok? Quindi famiglia e comunità. Reti primarie, la comunità nel senso di famiglia, reti primarie, quindi reti primarie, famiglia, reti di vicinato, eccetera, reti amicali, beni relazionali, primari. Allora, il nostro collega prima ha detto i valori della famiglia e io prendo spunto da questo per dire una cosa che è piuttosto importante. Lo schema AGI è un acronimo ricorsivo, cioè in sede di analisi può essere riapplicato a se stesso. Ok? in maniera potenzialmente illimitata. Cioè, io posso applicare lo schema Agile al mercato e identificare le risorse del mercato, cioè i mercati azionari, le risorse produttive, la produzione di beni primari, eccetera, eccetera, gli scopi del mercato, che sostanzialmente sono fare profitto, ok? Le leggi di mercato, le regole del mercato e i valori del mercato. Facciamo un esempio di valore del mercato: la libera concorrenza. Lei stava dicendo il profitto è lo scopo, ma però il mercato ha un'etica, pensando all'etica imprenditoriale, no? Per cui la libera concorrenza, l'assenza di cartelli che determinano, cioè le leggi del mercato, no? per il valore, diciamo, sorgivo che ha, etico fortemente, non si può dire che il mercato non abbia una dimensione etica, d'accordo? Ecco, potenzialmente Agile si può riapplicare a se stesso, per cui io posso identificare poi la dimensione delle risorse, degli scopi, dei valori e delle norme della I del mercato. Queste sono le regole del mercato. Quali sono le risorse che consentono l'esistenza di queste regole del mercato? Per esempio, istituti internazionali che favoriscono il coordinamento tra i mercati. Quali sono gli scopi che hanno queste regole? Per esempio, impedire la formazione di cartelli. Poi parleremo della nascita della network analysis negli Stati Uniti. Una delle ragioni fu lo studio degli interlocking directorates, che sono i legami personali tra i consigli di amministrazione, ma in pratica è vietata dall'inizio del Novecento, d'accordo? Cioè, se un manager, se un consiglio di amministrazione, se siede in consigli di amministrazione di imprese concorrenti, favorisce il coordinamento tra queste imprese, cioè la nascita dei cartelli, chi ci mette è il consumatore, d'accordo? Perché il prezzo viene controllato in sangue, ok? La dimensione normativa, cioè statutaria, formalizzata, eccetera, delle regole e i valori che fondano le regole e così via, d'accordo? Lo schema Agile è un acronimo ricorsivo, cioè si può riapplicare ed ha una potenza esplicativa straordinaria. Allora, che cosa trovate scritto in basso? Ed è il punto di arrivo nella presentazione del vostro testo: le semantiche della relazione. Allora, lo schema Agile consente di identificare due semantiche nella relazione sociale. La semantica AI, che è la semantica del refero. No, scusate, ho sbagliato. Che è la semantica del religo. Che cos'è il religo? È l'asse, la semantica, cioè i contenuti di significato strutturali della relazione, ok? La relazione ha bisogno di risorse e di regole integrative. È quello che fa stare in piedi i mattoni che fanno. Bellissimo, addirittura con i colori, cosa straordinaria. Ha bisogno dei cosa c'è? Un pezzo, no? Ci siamo. Dare l'ido. Allora, fermi tutti, hai ragione. Sto perdendo un attimo. Fermi tutti, no. Allora. Ogni relazione ha quattro dimensioni, ok? La dimensione delle risorse, la dimensione degli scopi, la dimensione delle norme, la dimensione dei valori, ok? Donati propone un modo per semplificare questa versione quadrifunzionale, raggruppando due dimensioni, ok? A due e due, ok? E in modo particolare, la prima dimensione è composta da A e I, cioè dalle risorse e le regole integrative, e questa dimensione qua, guardi, A, I, che si chiama dimensione del religo o asse strutturale. Che vuol dire strutturale? Se voi siete esperti di struttura, no? Perché ci sia una relazione, è necessario che ci siano delle risorse che circolano dentro la relazione e delle regole che la tengono in piedi, ok? La relazione, il legame di dono, ha bisogno, rispetto a quelle regole lì, di un principio, se vogliamo utilizzare quell'approccio, d'accordo? E questo è religo, cioè è, tiene insieme i soggetti della relazione ed è la dimensione strutturale della relazione sociale. Poi c'è un altro asse, che è l'asse GL, che è la dimensione del refero, cioè del riferimento di senso, è l'asse referenziale della relazione, cioè quello costituito dai valori che la relazione riproduce e dagli scopi che cerca di raggiungere. Perché lo scopo è un riferimento di senso? Perché una relazione che ha uno scopo, immagina dentro il suo DNA, contiene uno stato futuro delle cose, uno stato che deve raggiungere, poi naturalmente ce ne sarà un altro, eccetera, eccetera, d'accordo? E in questo senso il fine, è più chiaro capirlo per il valore, ma in questo senso il fine della relazione conferisce un senso alla relazione, gli dà un significato. Per questo G ed L sono messi assieme, ok? Queste due semantiche, di ricordo le chiamo semantiche, come fa Donato, sono la semantica strutturale e la semantica referenziale. Quando interagiscono tra di loro, cioè quando risorse e regole da una parte e fini e valori dall'altra producono la relazione sociale, generano una terza semantica che è la semantica relazionale generativa. A quel punto è nata la relazione sociale, ok? La semantica relazionale generativa della relazione sociale è data dalla relazione tra le due semantiche che ti ho appena presentato, cioè la semantica referenziale e quella strutturale. Se avete capito questo aspetto, avete già capito buona parte di uno dei due capitoli del testo Sociologia relazionale e Social Network Analysis, dove ho provato a mettere insieme l'approccio relazionale e la network analysis. Perché la network analysis ha un problema fondamentale, questo è il problema, che non esiste una definizione teorica del concetto di relazione. Cioè la relazione tra due individui è il fascio dei diversi legami, l'insieme dei diversi legami che questi individui hanno tra di loro, e noi li studiamo tendenzialmente uno alla volta questi legami, ok? Per cui il legame tra madre e figlia è l'insieme delle volte in cui si parlano, delle volte in cui si trasferiscono delle risorse, delle volte in cui si frequentano per, o parlano, si trasferiscono un sostegno profondo, un consiglio, eccetera. Ora, è chiaro che si fa fatica a immaginare le nostre relazioni come la somma dei legami che abbiamo tra di noi. Quello che, ed è piuttosto paradossale, questo è un mito della nostra analisi, cioè il fatto che non abbia una definizione teorica del concetto di relazione, ma solo una definizione operativa, cioè tanti tipi di legami diversi in base alle nostre necessità, alle nostre esigenze. Allora, che cosa vuol dire questo? Non soltanto ha un peso metodologico, ma anche teorico. Se voi volete creare delle relazioni tra soggetti che non si conoscono, che si devono sostenere, dovete fare in modo che ci siano dei legami per ciascuna di queste dimensioni. Perché? Perché la relazione deve avere quelle quattro funzioni per stare in piedi. Questa è la portata pratica dello schema AGE. È teorico, ma ha un'enorme portata empirica. D'accordo? Allora, uno dei tentativi che troverete, che ho fatto per questo, consiste nel far entrare il concetto di relazione semantizzato in questo modo. Vedete che la relazione non è definita, io prima ho detto la relazione non è definibile, ma è solo semantizzabile. Ecco le semantiche della relazione. Non possiamo definire, è un concetto primo della sociologia relazionale, ma possiamo semantizzarla. Se utilizziamo questo approccio abbiamo una visione multidimensionale, 1, 2, 3, 4 dimensioni multidimensionali del concetto di relazione, e poi sarà piuttosto semplice scegliere un legame indicatore di ciascuna di queste quattro grandezze se vogliamo studiare la relazione nella sua completezza teorica, ok? Piccolo, questo è una sorta di prolessi, cioè un'anticipazione rispetto a quello che poi vedremo, ma è il senso per il quale io oggi ho dedicato un particolare approfondimento alla trattazione dello schema AGI. Inoltre, nel testo trovate il riferimento alla dimensione, alle semantiche della relazione referenziale e strutturale, ma poi diciamo non c'è un approfondimento su questo perché non è l'oggetto del volume, ma fa il riferimento a tutta questa operazione che passa attraverso lo schema AGI. Ecco, un'altra sociologia, siete stati? Sì, io sono morta. 19-16. Sono fresco come una roba. Benissimo. Andiamo avanti fino alle 8 e mezza. Tramite lo schermaggio, da dove si riescono a trovare questo può essere cioè, uno degli strumenti che si può in quel contesto, ma non si può però di sicuro ci, dopo che entri fa carica messaggi precedenti. Sai che io non avevo mai pensato a questo, le lenti diranno come non ci ho pensato, però non è che ci sia tanto, guarda. Quindi io sono, adesso sono un altro, non vedo quelle cose, le cose precedenti che sono scritte. Una buona risposta alla sua domanda, come faccio a identificare? Giustamente, perché sono entrato adesso. Ma che viene da una Però una volta trovato due grandi bisogna cercare anche gli altri. Sì, su questo non c'è. Però hai già, diciamo, allora, io trovo un parallelismo fra le tecniche che stiamo applicando alle relazioni e le tecniche applicate ai processi organizzativi, perché in alcune modalità di analisi dei processi organizzativi si utilizza lo schema dei processi, no? Che sono schematizzabili negli input, negli output, nel throughput e quindi nei metodi, nelle risorse e quant'altro. Quindi vedo che c'è un parallelismo. Una sorta di diagramma di flusso, intende lei? No, è una logica che viene utilizzata per analizzare le organizzazioni, specialmente quelle che erogano beni o servizi, attraverso lo schema dei processi, che ha una sua, diciamo, definizione. Se volessimo, potremmo essere concordi sul fatto che un'organizzazione deve produrre dei processi che mettano, che producano, direi, utilizzando un approccio relazionale, l'organizzazione come una relazione tra queste quattro dimensioni. Allora, siccome è un acronimo ricorsivo, no, è d'accordo, sarebbe d'accordo con questo, perché anche il processo di organizzazione dell'azione di emergenza, adesso al di là della dimensione micro, cioè cerchiamo i contenuti dei legami, però tutto il processo, l'intervento, se noi definissimo l'intervento in situazione di emergenza come una relazione sociale, dovremmo identificare dentro l'azione di intervento nella sua interezza la dimensione delle risorse, quella degli scopi, quella delle norme e quella dei valori che guidano l'intervento, e senza dubbio questo è fattibile. Quindi direi, adesso ragionando a meglio rispetto all'applicazione di emergenza, che come è possibile in via generale e teorica applicare a livelli diversi lo schema agile, così pure deve, può avvenire in situazione di gestione dell'emergenza. Per cui un'azione coordinata può avere degli scopi, sono questi i problemi che a volte emergono, no? Gli scopi sono assolutamente sovradimensionati rispetto alle risorse. Oppure le regole non consentono alle risorse di essere finalizzate al raggiungimento di questi obiettivi. Oppure nasce con una valenza culturale un certo tipo di intervento e poi ne assume un'altra. Per esempio un intervento capacitativo diventa un'azione assistenziale. Ok? Questo può avvenire, difficilmente forse avviene il contrario. Che cosa significa? Significa che il sistema che si è prodotto è incompatibile rispetto ai valori. Quindi quando ci sono dei problemi, anche i problemi, quindi oltre ai processi, potrebbero essere analizzati pure in quelle situazioni come un qualche intoppo che è nato rispetto al modo in cui queste quattro dimensioni interagiscono tra di loro. Perché è comodo questo approccio? Perché se si usa questo approccio si riduce la complessità di quello che si sta guardando e si isola. Ricordate, prima c'era scritto agile è una bussola per la sociologia, cioè in teoria è da dentro, tu puoi capire che cosa non funziona e quali sono le cause, forse in maniera un po' più. E nonostante ci sia una forte avversione da parte di molti sociologi nei confronti della sociologia funzionalista, questo schema, che chiaramente è radicato nel funzionalismo, perché io parto dal presupposto che un sistema deve avere queste quattro funzioni, queste quattro dimensioni, è nei fatti potentissimo dal punto di vista di quello che riesce a dare nella superficie, nella conoscenza e nell'orientamento della conoscenza, in semplificare la conoscenza della realtà. Io per esempio ho utilizzato questo schema nella relazione di aiuto, utilizzando il concetto di capitale sociale, e sono stato costretto al di là di queste due dimensioni che sono più semplici, no? Qui c'è il passaggio di risorse, di beni per l'aiuto, qui il sostegno profondo, il sostegno psicologico, ti trasmetto una modalità per superare un problema, l'aiuto, il trasferimento di un valore, ero stato un po' più, ho dovuto molto riflettere con i colleghi sulla dimensione dell'aiuto come capitale sociale, G e I. Alla fine I è il trasferimento di un contatto, di una relazione. Ok, per cui ti presento qualcuno che ti può aiutare. Questo tipo di aiuto è diverso rispetto al sostegno, ti aiuto direttamente io, rispetto con una risorsa, ti aiuto io con un sostegno psicologico, con un consiglio. Ti presento qualcuno. Che cos'è G? G è l'aiuto in termini di reputazione e potenziali sociali. È la versione buona della raccomandazione, diciamo così. Tu vai, chiedi come se fossi io. Ti do la possibilità di usare le mie potenziali sociali. E questo è un aiuto diverso rispetto a ti presento un bravo medico, ti do un consiglio, ti do una risorsa. Ecco, questo è uno dei casi in cui utilizzare lo schema AGI consente di, e io mi porta, mi sfido e chiedo anche a voi se c'è un aiuto, voi siete esperti di aiuti, d'accordo, che non possa essere infilato dentro una di queste quattro dimensioni teoriche. Quando ci sarà un aiuto che non sarà più utilizzato, che non sarà infilabile là dentro, allora vuol dire che il sistema teorico non funziona o deve essere in qualche modo rivisto. Fin tanto che funziona, però, provate a riflettere su un aiuto che non sia infilabile qua dentro, che non sia perché in qualche modo catalogabile. Mamma mia, scusate, io sono un sequestratore. Secondo me ci sono dei rumori che ci stanno dicendo che ci chiudono. No, sono io che ho colpito. Ho sentito muovere nervosamente delle sedie. Va bene, allora facciamo così. Emil Bayer lo. No, stasera. Stasera ve lo buono. Facciamo così, facciamo solo il file, sono due slide. E poi la prossima settimana facciamo cose, ok? D'accordo? Ma è molto rapido, ok? Su, dai che ce la facciamo. Ho ancora fatto nella memoria. Dai che avete, lui ha spento tutta la. No, non l'ho spento. Allora, la sociologia relazionale di Emil Bayer prende le mosse da una critica al pensiero sostanzialista in contrapposizione con quello relazionale. Allora, qual è il concetto sostanziale? Che Emil Bayer dice: non possiamo riconoscere delle essenze nei soggetti, negli individui e nelle istituzioni. E vado rapido perché qua ho trovato tutti i riferimenti all'interno del testo. Essenzializzare è sinonimo di reificazione, di staticità alle istituzioni, agli aggregati collettivi, agli individui, eccetera. Gli essenzialisti riconoscono la caratteristica di essere delle entità autosussistenti, cioè delle cose che esistono di per sé, che si reggono in piedi da sole. Ok? Questo è un po' il concetto in Emil Bayer. Lui critica questo approccio, ma dice: non è vero, non si può avere un approccio sostanzialista nei confronti delle istituzioni, degli individui, degli aggregati collettivi, eccetera, ma e questa è la, la sintesi che vi propongo, occorre utilizzare una prospettiva transazionale nella conoscenza della realtà, perché non è statica, la realtà non è statica, è fatta di relazioni. Non possiamo immaginarla come degli oggetti poggiati su un pavimento e che hanno le sedie, sono autosussistenti, sia a livello macro, cioè le istituzioni, che a livello micro. Le cose non sono assunte come esistenze presenti e antecedenti ad ogni relazione, ma acquistano una loro esistenza nelle e con le relazioni che sono predicati di queste essenze, di queste cose. Le cose sono dunque termini delle relazioni e nulla può essere dato in isolamento, ma solo in un ideale comunità degli uni con gli altri. La società stessa non sono altro che una pluralità di individui associati. Ecco quindi il contributo fondamentale, l'approccio transazionale. La società è fatta di relazioni, è dinamica e non è possibile conoscerla identificando delle essenze e gli elementi micro, gli individui e macro, le istituzioni che la costituiscono. Avete domande? Io vi ringrazio tantissimo per la pazienza e per la partecipazione attiva alle lezioni che veramente ci tengono in piedi secondo un approccio transazionale.